Secondo me non ci sono dei motivi in particolare, nel senso che non c'è nulla da meravigliarsi, perché a livello femminile come a livello maschile si lavora bene, si lavora con grandi numeri. Adesso è un periodo che le ragazze evidentemente stanno trovando, al di là di un maggior spazio, maggiori risultati, stanno trovando dei risultati eccezionali a livello non solo europeo ma anche a livello mondiale, questo in tante discipline, sia individuali che di squadra, però penso che non ci sia da meravigliarsi, forse ecco, salta un po' all'occhio la differenza rispetto al settore maschile che è un po' in difficoltà, però penso che non ci siano dei motivi particolari, è probabilmente un periodo poco felice di quello che può essere il settore maschile, ma a livello femminile non dico che deve essere normale, però non deve meravigliare che le ragazze in tutti gli sport ottengano degli ottimi risultati. Per quanto riguarda invece la gestione del gruppo, coach, lei che ha appunto lavorato ad alto livello, ad altissimo livello, anche nel settore maschile, c'è in qualche modo una differenza di approccio, una differenza di metodologie o tecniche che un allenatore mette in campo nel plasmare un gruppo vincente al femminile piuttosto che al maschile? Ma dal punto di vista tecnico, tattico, possono esserci sicuramente delle differenze contingenti, ma non sono poi più di tanto, almeno nella pallavolo. Dal punto di vista di quello del rapporto, penso che debba essere in ambo i casi un rapporto il più possibile basato sul rispetto reciproco, sulla fiducia. Non penso assolutamente che ci sono situazioni particolari. Poi è ovvio, uomini e donne siamo un pochino diversi, su quello non c'è bisogno di entrare in una palestra per rendersene conto, però penso che il compito di un allenatore non sia assolutamente quello di starsi a preoccupare magari di queste cose, se c'è un rapporto così corretto, educato, e si crea nel tempo una fiducia tra quello che può essere allenatore e le giocatrici, che si capisce che tutti si sta lavorando per lo stesso obiettivo, magari con compiti diversi, questo uomini o donne io onestamente la differenza non la vedo.